te prate i te bebe. La terra dovrà fecciare l'or bacio di mio me che per te e a mia mente a già non temo un temporale, poi s'agora a un vento fare, so io sto, so io se, caso edade, ma non me può dolere.